Va bene, grazie per essere venuti. Due parole, due prima della visione. Abbiamo pensato di far precedere al film di Guzmán il video di una canzone di Víctor Jara, Te recuerdo Amanda. La figura di Víctor Jara la conoscete sicuramente, il grande cantautore cileno, proletario, campesino, ucciso nei giorni del golpe. Il suo cadavere fu ritrovato il 16 di settembre. E a me la sua figura richiama quella di Tilman Riemenschneider, forse il più grande scultore tardo gotico, rinascimentale, tedesco, al quale furono spezzate le mani per avere partecipato e sostenuto i contadini in rivolta. Anche a Víctor Jara furono spezzate le mani, così non avrebbe più potuto suonare la chitarra. Poi gli spararono una quarantina di colpi. E non solo le sue canzoni furono proibite, ma fu ordinata la distruzione delle matrici originali dei suoi dischi. Ecco, la sua figura esemplifica il grado di avversione dei golpisti a tutto quello che sapeva di autonomia, di indipendenza, di cultura dal basso. Nella iniziativa di questa sera abbiamo voluto sottolineare come il golpe cileno del 73 fu l'apertura del terrorismo globale neoliberista, un tratto che ai tempi non si riuscì a capire forse adeguatamente. Risultò più chiaro con la vicenda argentina, che sarebbe iniziata tre anni dopo, nel 76. Ecco, il film di Guzmán dedica molta attenzione a questo lato della vicenda e ai suoi lasciti fino al presente. È la terza e ultima parte di una trilogia. Noi, una decina di anni fa, demmo il primo capitolo, Nostalgia della luce. Con la cordigliera dei sogni, Guzmán chiude questo percorso attraverso la geografia e la storia cilena, e ci è parso che potesse riassumere bene tante questioni che allora si sono giocate e continuano a giocarsi. Sapete, tutti ricordate le grandi lotte del 2019-2020, quel grande movimento di lotte iniziato per opporsi all'aumento dei prezzi dei trasporti pubblici, che poi è continuato per diversi mesi. L'anno scorso, sapete anche, proprio a settembre del 2022, l'esito che le forze politiche della sinistra istituzionale hanno cercato di dare a quel movimento, cioè la riforma costituzionale, è stato negativo, perché la maggioranza degli elettori ha bocciato questo piano di varare una nuova riforma che chiudesse i conti con la nuova Costituzione dell'80 fatta approvare da Pinochet. La vicenda non è chiusa, però ecco, questo basta per dire che non è una storia di 50 anni fa che si tratta semplicemente di ricordare. È un corso politico estremamente complesso e difficile, che continua ancora nel presente. Io volevo dire solo questo, e vi lascio alle immagini. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ogni volta che sorvolo la cordigliera, sento che sto arrivando nel paese della mia infanzia, il paese delle mie origini. attraversare la cordigliera significa raggiungere un luogo molto lontano nel passato. Tutto mi sembra irreale. Mi sento un po' un extraterrestre. La città in cui sono nato, Santiago, mi accoglie con indifferenza. Quando torno qui, sento sempre la stessa distanza. Vedo una città che non riconosco. In fondo, non so dove mi trovo. Ho l'impressione che sia passato più tempo di quanto ne è passato realmente. Ricordo un paese in cui mi sentivo più a casa con la mia famiglia e i miei amici. Ora gli odori sono diversi. Non assomigliano all'aria che respiravo, come se tutto fosse scomparso tra le crepe di questo suolo. A Santiago, molta gente guarda la cordigliera solo quando va in metropolitana. Questi affreschi sono opera del mio amico Guillermo Muñoz. Lui vive in Spagna. Io vivo in Francia. Né io né lui siamo mai tornati a vivere nel nostro paese. Entrambi sogniamo il Cile da lontano. La cordigliera, per la forza e il suo carattere, è la metafora di questo sogno. Da giovane non nutrivo alcuna curiosità per le Ande. La mia generazione era troppo impegnata a creare una società nuova. La cordigliera non era una cosa rivoluzionaria. Col passare degli anni ho rivolto lo sguardo verso le montagne, mi intrigano. Forse sono la porta d'ingresso che mi porterà a comprendere il Cile di oggi. La cordigliera è un mistero e come tale non si spiega, esiste. Esiste sempre come una sorta di, direi, di allucinazione. È un'allucinazione. Un'allucinazione che si materializza. E noi siamo qui. A volte ti dà conforto e ti accompagna sempre. Ti abbraccia, è come lo schienale di una sedia. Non ti fa cadere né in avanti né indietro. Quando parlo della bellezza della cordigliera, la intendo nella sua interezza, tragica, meravigliosa, cioè forte, parlo di forza, ma anche di tenerezza. Non c'è niente di più dolce delle sue valli, le famose aree umide. Niente, niente. La quantità di uccelli che c'è e il movimento dell'erba. L'erba e la liareta sono cresciute per milioni di anni, dando vita a queste colline verdi. Poi c'è il vento. Oggi soffia il raco. Il raco inizia a soffiare alle 7 di sera e si sente un odore particolare. È l'odore delle rocce alla base della cordigliera, che sono molto acide. Per conoscere e amare le Ande, bisogna conoscere l'origine di questo vento che le attraversa e ci parla. Con la sua musica e il suo odore, con il profumo del vento, il profumo della roccia e anche della vegetazione. Quella che osservo ora è la realtà. Sono tornato indietro, non mi serve altro. Se ti metti a guardare le Ande, capisci di essere in uno scrigno che conserva le più importanti leggi poetiche. È come se le Ande contenessero ogni cosa. Ci sono i burroni, i ghiacciai, c'è l'acqua allo stato puro. Le Ande custodiscono tutto questo. È dentro di loro. La sensazione, dopo aver vissuto a lungo sulle Ande, è di essere all'interno di un grande contenitore di pietra che custodisce tutto quanto. Entrando al suo interno, come si vedeva sulla mappa, c'è un labirinto di gole. Un labirinto. È lì che abbiamo trovato tracce dei nostri antenati, i Quechua. La nostra cultura ha 20.000 anni, non 500. Sono 20.000 anni di testimonianze. Spostalo un po'. Più in alto. È una buona combinazione di ferro e pietra. La pietra proviene dalla mia cava. E anche il ferro viene forgiato qui. Questo rappresenta una barca. È un tipo di artigianato molto legato alla cordigliera. Ci ricorda che il nostro sangue proviene per metà da Valparaíso, la nave. Questa è la rosa dei venti. Si usa per leggere la posizione delle stelle e navigare. Arrivò così, l'altra metà del nostro sangue, dal mare. Come scultore, la cordigliera è la mia musa. Siamo artisti. E un artista è il guardiano della bellezza del suo paese. Un artista deve vegliare sulla bellezza del suo paese, ovunque sia. Un paese che lascia abbandonato l'80% del suo territorio è insensato. Non è un paese di cui fidarsi. Le Ande occupano l'80% del territorio cileno e sono abbandonate. Questo paese dovrebbe prendersi cura della sua cordigliera. Dovrebbe occuparsi dell'80% di se stesso. Per me la cordigliera è misteriosa perché nasconde la sua essenza. Questo ha delle analogie col mio lavoro, perché quando raccolgo o estraggo una roccia dalle montagne della cordigliera, lo faccio per aprirla e scoprire cosa nasconde. La cordigliera mi ricorda quel bisogno che sentivo sempre da bambino, quando accompagnavo mio padre, di scoprire cosa si nascondeva dietro ad ogni montagna. E per me era un mistero continuo, perché superavo una montagna e ne scoprivo un'altra. La cordigliera è fatta così. Hai sempre la necessità di sapere cosa c'è più in là. La cordigliera è come un infinito recinto orizzontale, più lungo che alto, nonostante raggiunga gli 8.000 metri o i 6.000 qui in Cile. È un punto di riferimento sempre presente, ma oltre che fisico, io credo sia un riferimento culturale. È un concetto difficile da definire, è qualcosa che respiro. Appartengo a un paesaggio con determinate caratteristiche. Non vivo in una valle, ma tra le montagne. Tra le montagne e il mare, che creano in qualche modo una specie di isola che mi protegge, ma a volte appunto mi isola. Thank you. Ho sempre avuto l'impressione che in Cile il tempo scorra più lentamente, forse a causa di questa muraglia di rocce. Mentre viaggio tra le montagne, sento che il passato mi è più vicino. Ricordo cose che credevo dimenticate. Santiago volta le spalle alla cordigliera, non la guarda, non la cerca e non la capisce. Quando osservo la cordigliera vedo milioni di anni di evoluzione. Addentrandosi nella montagna si scoprono cime che non sono visibili dal lato cileno, dalla valle centrale, e in più si cammina nel tempo. Più ci si addentra e si avanza nella cordigliera, più si viaggia indietro nel tempo. Si scoprono tracce di mondi passati, sempre più antichi, camminando fra le montagne. Sono cresciuto osservando la cordigliera, in particolare un vulcano. Mi facevo molte domande. A proposito di questo vulcano, perché gli mancasse una parte e perché a volte vedevo dei bagliori sulla cima. Si raccontavano storie su una grande eruzione avvenuta quando i miei nonni erano piccoli. Il vulcano era sempre avvolto dal mistero. Quando mio fratello era bambino diceva una cosa, secondo me, molto sensata, che la cordigliera era come una madre. Anche se non la vedevi, sapevi che c'era. Che era... Io mi sento protetta dalla cordigliera. Ma in altri momenti della vita l'ho vista... come un divisorio che ci isola da tutto ciò che esiste al di là, dal mondo intero. Geograficamente, la cordigliera può essere vista come un muro che ci separa dal resto del mondo, o un muro che ci protegge dal resto del mondo. Abbiamo questi due modi di vederla. A me piace pensare alla cordigliera come un mare, che ci rende un'isola. Amo il concetto di isola, perché le isole creano culture molto intense e serrate, molto con una forte identità locale. La sorpresa più grande è entrando nella cordigliera a piedi, a cavallo o in automobile, è che forma un intero paese che vive accanto al nostro. In alcuni punti la cordigliera è ampia quanto il Cile pianeggiante. La cordigliera ha due dimensioni. Una è lo spessore e l'altra è la lunghezza. La cordigliera è come l'immagine sui fiammiferi. Ti viene da pensare che se ti sporgi dalle cime, vedi l'Argentina. È una specie di fondale di teatro. Quando ero bambino, la prima volta che vidi la cordigliera fu sulle scatole dei fiammiferi. Sembra che il tempo si sia fermato. Ancora oggi le scatole sono le stesse. Mi invitano a visitare il mio quartiere. tra questi muri vivono i miei ricordi. Qui sono nato e ho imparato a camminare. Qui giocavo e ho imparato a essere me stesso. Poi, anni dopo, quando questa casa non era più mia, qualcuno ne dipinse le rovine. Per puro miracolo, qui non è stato costruito nessun grattacielo e posso riprendere con la mia telecamera le rovine della mia infanzia. In seguito andai a vivere in questa nuova casa con la mia famiglia. Ero già adulto e regista. Negli anni 70, quando avevo 30 anni, qui girai il mio documentario La battaglia del Cile. Eravamo una piccola troupe di 5 persone. Girammo tutto. Prima l'entusiasmo che trascinò lontano sia noi che l'intera popolazione. E poi le tensioni che ci portarono al colpo di Stato. Ogni mattina uscivamo da qui. Il giorno del golpe tornai per l'ultima volta con l'ultima bobina in mano. Non avrei mai immaginato che la battaglia del Cile sarebbe stata viva ancora oggi. È un po' lo specchio di un passato che vi perseguita. Golpe è stato un terremoto violento che ha cambiato per sempre le nostre vite. Siamo rimasti intrappolati in una gigantesca esplosione. Siamo rimasti in silenzio, imprigionati. In milioni abbiamo sentito una paura profonda che non avevamo mai provato prima. Per anni abbiamo nascosto ai nostri figli ciò che era successo e ciò che stava ancora accadendo. Ricordo quell'insicurezza che un bambino prova quando capisce che un adulto è turbato. Questa sensazione mi commuove ancora. È un'insicurezza che si prova quando gli adulti, i tuoi genitori, sono disorientati. Avvertono il pericolo, hanno paura e magari sono confusi. Sono disorientati dalla violenza portata al limite. Credo che come bambini ricordiamo cose terribili, come i raid della polizia nella notte mentre dormivamo e ci tiravano fuori dal letto. I soldati con gli elmetti entravano nelle stanze, sollevavano i materassi, guardavano persino nelle case delle bambole in cerca di armi, credo. Come se un musicista avesse armi dentro casa, è assurdo. Ricordo di essere stata dietro la ringhiera della mia scuola, la scuola latinoamericana a Pedro de Valdivia, Ero aggrappata alle sbarre insieme ad altri bambini e guardavamo passare i carri armati. Ricordo che gli adulti avevano perso totalmente il controllo e noi ci rendevamo conto di tutto. Dicevano che Vitor Jara era morto e la gente piangeva tutto il giorno. Da piccolo nella mia scuola a volte tremavano i banchi. Seguiva un rumore fortissimo, infernale. Erano aerei militari che volavano molto bassi. Noi bambini in quell'aula avevamo molta paura. Piangevamo. Era tremendo sentire quella forza, un rumore sordo che arriva così vicino alla superficie. Quindi eravamo lì, iniziavano le domande dei bambini agli adulti. Cosa sta succedendo? Mi misero agli arresti domiciliari con la mia famiglia per 4 duri anni. 4 anni agli arresti domiciliari. Chi era ai domiciliari a quell'epoca era ostaggio della junta. Se succedeva qualcosa a un militare o a un membro del governo, sapevamo che sarebbero venuti da noi la notte stessa, che ci avrebbero messi in fila contro il muro. O portati alla centrale di polizia. La nostra porta non era chiusa a chiave, perché sapevamo che l'avrebbero sfondata. Ci svegliavamo spesso con una mitragliatrice puntata qui. Nei primi giorni dopo il golpe, sentivo un panico profondo. Chiuso in casa, ricordo che giocavo molto con le mie figlie, perché non si rendessero conto di ciò che stava accadendo. Non osavo uscire in strada. Iniziai a rivedere i miei documenti in ordine sparso. Non osai nemmeno bruciare i giornali, le riviste o i documenti che avevo raccolto per girare il mio film. Non sapevo cosa fare. Passarono 3 o 4 giorni prima che i carabinieri venissero a casa mia per arrestarmi. Molto tempo fa, quando avevo 20 anni, qui si giocò il campionato mondiale di calcio. Venni a vedere la partita Italia-Cile, in cui vinse il Cile. E qualche giorno dopo accadde un miracolo. Il Cile conquistò il 3° posto del mondiale. Eravamo i terzi del mondo. Ricordo che la festa durò diversi mesi. In seguito tornai in questo stadio, ma come prigioniero politico. Questa volta eravamo alcune migliaia. Rimasi qui per 15 giorni prima che i militari riuscissero a trovare le bobine del mio film. Ricordo perfettamente l'immagine del tabellone segnapunti. Dopo il colpo di Stato, non sono più tornato a vivere in Cile, anche se ho dedicato tutta la mia carriera al mio paese. Poi lasciai lo stadio. e in seguito il mio paese per salvare le bobine. In quel periodo altri continuarono a fare riprese. Uno di loro era Pablo Salas. Pablo avrebbe potuto essere arrestato, torturato e persino ucciso. Miracolosamente non gli accadde nulla. Senza di lui non avremmo tante immagini della resistenza contro Pinochet. Per 37 anni e fino ad ora non ha mai smesso di fare riprese. Forse è stato l'unico cineasta in America Latina e uno dei pochi al mondo ad aver ripreso così a lungo la realtà che viveva. Grazie alle sue immagini, oggi possiamo ricostruire gli anni mancanti della storia del Cile. Quando hai iniziato? In che anno? A filmare? Sì. Nell'82 e 83. E non hai mai smesso, hai continuato sempre? Sì, ho continuato fino al 90, quando arrivò Alwin e Pinochet se ne andò. Andai in Belgio per 2 anni e tornai nel 94. Arrivò nuova gente, nuovi registi che filmavano, soprattutto fra i giovani. Oggi ci sono molti giovani che girano documentari. Quando c'è una protesta e ho tempo, io ci vado. Posso sempre usare il materiale per l'archivio. È il mio punto di vista. E se mi annoio vado a bermi una birra. E torni a casa. Esatto. Oggi, quando riprendi una protesta, sei disturbato da cellulari e macchine fotografiche. Passanti, è molto diverso. L'unico momento tranquillo per riprendere è se ci sono gli scontri. Barricate, gas lacrimogeni e getti d'acqua. Allora sì che rimaniamo in pochi. E posso riprendere i getti d'acqua, le pietre che volano e nessuno ti disturba. Il momento peggiore è quello migliore. Esatto, l'immagine è più pulita. Qualche giorno fa riprendevo una marcia e la gente ha iniziato a correre nel panico. Io sono salito su un muretto e ho ripreso l'arresto di un ragazzo. Ho seguito la scena, arriva la camionetta, aprono la portiera, lo fanno entrare e mi si mette davanti uno col cellulare. Alle 2 di notte sono arrivati al quartiere La Victoria. Hanno circondato l'area e iniziato il raid. Alle 3 urlavano in un megafono. Sono andati di casa in casa. Hanno perlustrato l'intera area. Hanno preso tutti i maschi, dai 15 ai 65 anni, senza eccezioni. 20.000 prigionieri in uno stadio. Abbiamo filmato alcune case che all'esterno avevano un triangolo rosso. Un adesivo bianco con un triangolo rosso al centro. Ci hanno detto che lo mettevano i militari sulle case già controllate. Avevano preso tutti gli uomini. Una situazione impensabile in qualsiasi altra parte del mondo. Ci siamo spostati. Siamo entrati in un palazzo tra il terzo e il quarto piano. C'era una finestra che dava sullo stadio. Abbiamo guardato ed era pieno di gente. I muri dello stadio sono alti. Mi sono sporto il più possibile e ho iniziato a riprendere. L'immagine non è nitida né buona, ma si vede bene la massa di prigionieri. Era un campo di concentramento. La dittatura era ormai salda. Era sorprendente. Abbiamo fatto le riprese e siamo andati via in fretta. La dittatura era così... Era terribile. I raid erano frequenti ovunque, non solo nelle zone povere, ma anche in altri quartieri che erano più o meno tranquilli. In questo caso, nel caso della Victoria, fu molto violento e arrestarono tutti gli uomini. Quando vedo le immagini di Pablo, mi rendo conto che le nostre vite hanno preso strade diverse. Pablo è uno di quelli che sono rimasti. Io sono uno di quelli che sono andati via. Ma abbiamo una cosa in comune. Siamo segnati dalla stessa utopia. Ora mi piacerebbe entrare nella sua macchina del tempo. Volevo mostrare ciò che stava accadendo alla gente di qui, non agli altri, perché all'estero tutti sapevano. Fin dal primo giorno, i prigionieri nello stadio, i morti del fiume Mapocho, i prigionieri nei campi di concentramento. Fuori dal paese tutti sapevano, ma non qui. Ci raccontavano ciò che volevano. Quando iniziarono le proteste, volevo mostrarle alla gente. Quando finì la dittatura, mi sono ritrovato con tutto questo girato. Ho cercato di non cancellarlo, anche se a volte ho dovuto. Questi archivi sono nati dal nulla. Vengono dal mio desiderio di mostrare ciò che accadeva. Avevo preso una decisione. E l'ho portata avanti, non so perché. Ora vorrei passare il testimone. Quanti anni sono passati? Sono passati 27 anni dalla fine della dittatura di Pinochet. E ogni volta che ho cambiato ufficio mi sono portato tutte queste cassette. Questa durava 20 minuti. 20 minuti. E questa... Guarda, questa... Questa è più piccola. Ma dura 4 ore. 4 ore. È così. Questo è un hard disk che può contenere quanto? Fino a 1200 ore. Mi ha cambiato la vita. E guarda la batteria. Guarda. Guarda, questa dura 3 ore. A quei tempi era impensabile. Di notte in modalità economy puoi riprendere tutto. Penso che... Se allora avessimo avuto questi strumenti, io sento che avrei dovuto riprendere di più. Ho avuto delle possibilità, ma non le ho sfruttate. Cioè, ho fatto ciò che ho potuto, ma... Ma mi sono reso conto che ci sarebbe stato davvero tanto da riprendere. Están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Thank you. Chi era di sinistra era diventato il nemico di questa tempesta di fuoco. La destra non lo considerava umano. Attraverso i media e la propaganda gli erano state attribuite tutte le aberrazioni possibili. Insensibile, ateo, disumano, antipatriottico, mangia bambini, distruttore del paese e delle sue istituzioni, della Chiesa e dei valori nazionali. Era diventato un demonio da eliminare. Come dicevamo, si raggiunge una logica simile alla mentalità nazista, che vede la società come un organo unico nel quale alcuni elementi sono malati, arrivando ad affermare che alcuni cileni sono un cancro, un tumore che deve essere eliminato. In Cile c'è stata una tempesta che definirei archetipica. Il bene contro il male, dove il male era rappresentato da persone, civili, gente disarmata, bambini e giovani. È stata una cecità mitologica. Lottavamo contro il demonio e questo ha permesso la disumanizzazione dell'altro, fino ad arrivare a torturarlo con l'elettricità, a ferirlo fisicamente, avvelenarlo, mutilarlo, farlo saltare in aria o farlo scomparire. È stata una specie di furia. Mi mancano le parole. Per tutto il periodo della dittatura, la cordigliera è rimasta al suo posto. Forse ci osservava, senza che lo sapessimo. Non ci ho mai pensato prima, ma credo che la montagna sia un testimone. Ha visto cose che noi abbiamo cercato di nascondere. Se la roccia potesse parlare, oggi avremmo le risposte che ci mancano. Ciò che io ed altri abbiamo ripreso durante la dittatura non è neanche il 5% di ciò che è accaduto. La dittatura ha torturato, ucciso, esiliato, minacciato. Niente di tutto ciò è stato ripreso. Niente. Assistere a una tortura è una cosa diversa e non è mai stata ripresa. Solo con le immagini che abbiamo dimostriamo già che la dittatura è stata tremenda. Possiamo immaginare il resto. Sono fatti accaduti durante la dittatura e nessuno può affermare di non sapere o non avere mai saputo niente. Si scoprì tutto in pochissimo tempo. 15 o 20 anni dopo, non possiamo dire che non sapevamo. Fino all'arresto di Pinochet a Londra hanno continuato a negare le sparizioni. Eravamo nel 98, nel 2000. Dicevano che non esisteva gente scomparsa o torturata. Insistevano che si trattava di esagerazioni. La settimana scorsa hanno affermato che sono stati commessi errori. Il termine è stato subito corretto in orrori, non errori. Penso che i protagonisti del colpo di Stato e della dittatura credano di essere nel giusto. Sono ancora sotto l'effetto di un incantesimo. Non so come definirlo. È come una maledizione. Pensavano di combattere una guerra contro un nemico letale che avrebbe sottomesso il paese, gettandolo in un caos spaventoso, e sono ancora sotto l'effetto di questa maledizione che li porta a vederla come una lotta epica. Ai pochi con cui ho parlato, che hanno rotto questo incantesimo e hanno visto cosa hanno fatto davvero, ovvero ucciso uomini, donne e bambini indifesi, sono rimaste due opzioni: l'angoscia, la riservatezza e l'isolamento, e la negazione, che è la soluzione più comune, più comoda e porta alla tranquillità dell'anima. Credo che tutta questa gente morirà credendo di aver fatto del bene al paese. Sono ancora sotto l'effetto di un incantesimo. Negazione, cioè disconoscere ciò che è accaduto? Certo, cioè non disconoscerlo, ma reinterpretarlo. Lo interpretano da un punto di vista molto fascista, mitico, epico, mentre ciò che è accaduto è comune, banale e schifoso. C'è una sorta di continuità tra i politici civili golpisti e chi ha governato per quasi tutti gli anni 90. Erano complici. Calò nuovamente il silenzio sulla questione. I resti di Salvador Allende vennero disseppelliti e seppelliti nuovamente. È una metafora. Si tirano fuori da un buco e si seppelliscono in fretta in un altro. Questo ha lasciato il paese all'oscuro di ciò che era accaduto. Questo selciato si trova qui da molto tempo. È fatto con le pietre della cordigliera. Quando ero bambino, amavo camminarci sopra. Lasciavo la mano di mia nonna e saltavo da una pietra all'altra. In seguito, il selciato fu il primo a sentire il passo del terrore che marciava per la città. La gente iniziò a riconoscere il rumore dei carri armati e dei camion militari. Nella notte si sentivano rumori che nessuno conosceva. Al mattino si vedevano persone seguire altre persone. Quando uscivano per strada, camminavano nella paura. Se le pietre della cordigliera potessero parlare, racconterebbero del sangue che scorreva su di loro. Qui sono incisi i nomi di alcune delle vittime. Hai crimine? Ci sono crimini che non ammettono e non lo faranno mai. Parlano di esagerazione, ma non fanno mai un profondo mea culpa. È la cosa peggiore nella situazione odierna. È quello che noi chiediamo è che riconoscano le loro azioni. Loro parlano di errori, dicono che le cose gli sono sfuggite di mano, ma sono contenti del sistema economico. Continuano a sfruttare e a beneficiare del sistema economico. Continuano ad arricchirsi. È vero, il paese è cresciuto molto. Non esistono quasi più le baraccopoli. Oggi la gente povera ha un'auto e un cellulare. La loro vita è cambiata, vivono molto meglio rispetto alla fine della dittatura. Ma ci sono enormi differenze sociali. Basta guardare i quartieri alti o le case sulla spiaggia o quelle in montagna o i laghi. Sono tutti privati. Tutti i meravigliosi laghi del Cile sono privati. Non sono accessibili. Le cose stanno così. Loro sono ancora al potere. Ci sono enormi differenze. Hanno costruito strade che vanno dai loro quartieri all'aeroporto, senza passare per Santiago. È una situazione incredibile. C'è gente che usa e abusa di ciò che ha lasciato Pinochet e continuano a farsi i complimenti per ciò che hanno raggiunto. Ancora oggi il golpe ha vinto. Dobbiamo ricordare che il golpe ha rappresentato due cose: la creazione di un modello economico e la struttura istituzionale che lo sostiene, il neoliberismo e la Costituzione del 1980. Questo esiste ancora, c'è ancora. Cos'è successo dopo il colpo di Stato, dopo il golpe militare? Il Cile neoliberista non è solo un esperimento economico, ma la creazione di una visione del mondo. Il neoliberismo introduce l'idea della redditività non solo nelle aziende, ma nella vita. L'arte, la cultura, la salute, l'insegnamento devono essere fonte di reddito. Il Cile è un paese stabile per gli investitori esteri. Per attirarli, viene detto loro che se vengono qui, godranno di molti vantaggi e nessuno li infastidirà. Non ci saranno sindacati o altri problemi. Il loro denaro non corre rischi perché il paese è stabile. Come si è arrivati a questa stabilità? Molto tempo fa, all'inizio della nostra Repubblica, la stabilità è nata con l'uso della forza. In Cile ci sono treni fantasma che viaggiano di notte. provengono dalle miniere che si trovano vicino alla cordigliera. Mi ricordano i vecchi treni che attraversavano le Ande per andare in Argentina. Trasportano i minerali al porto a tutte le ore, specialmente di notte o di prima mattina. La gente si è abituata a vederli passare e ha smesso di fare domande. Non hanno orari e trasportano il rame, il principale tesoro del Cile. A volte si fermano per via di un semaforo rosso, ma nessuno conosce i loro spostamenti. Questi treni invisibili passano vicino a villaggi senza nome, dove vivono uomini e donne, a loro volta invisibili. In Cile, ciò che non si vede non esiste. Diciamo a noi stessi che qualcosa non va. L'anima soffre. L'anima del Cile è corrotta. È strano che ci sia tanta ricchezza, tanti milionari conosciuti nel mondo in un paese povero come questo, che vive solo del rame. Il rame che negli anni 60 era cileno solo per metà e diventò cileno al 100% sotto Allende. Oggi la parte cilena è minore di quella straniera. Il rame va per la maggior parte agli stranieri. Non so in che percentuale, ma la miniera che estrae più rame in Cile è straniera, non è cilena. L'esercito ci ha fregato alla grande, davvero. È il trionfo della dittatura. Il trionfo della dittatura è che hanno dato via il paese. L'hanno venduto. La neve ricopre il paesaggio nel mezzo della cordigliera. Se cerchiamo questo luogo su una mappa, spesso non viene neanche segnalato. Non ci sono neanche sentieri pubblici per venire a visitarlo. Nessuno può avventurarsi qui senza un'autorizzazione. È un immenso territorio cileno, che non è cileno. In alcune province, l'80% della terra è proprietà privata. I grattacieli non hanno ancora invaso il quartiere delle case più antiche di Santiago, che sembra un campo di battaglia. Con mia grande sorpresa, davanti alla mia telecamera, compaiono questi militari che risvegliano la mia memoria. Quando ero bambino, mia nonna mi portava a vedere la parata per la festa nazionale, che ho quasi dimenticato. La musica non è mai cambiata. Thank you. questi sono i vecchi uffici di Pinochet, che per 20 anni ha presidiato la parata dei soldati. Mi interessa entrare in questo luogo abbandonato, pieno di fantasmi. Riesco a vedere le ombre dei generali che camminano su questa moquette, dando ordini. Qui Pinochet approvò il programma proposto dagli economisti del tempo. Portarono il modello direttamente da Chicago. Quando erano giovani studenti, impararono la formula economica per cambiare un paese. Il modello di Chicago era il più radicale che si conoscesse. In un paese privo di libertà, a loro venne data carta bianca per realizzare le loro idee. Ancora oggi sono orgogliosi che il Cile sia stato il primo paese ad utilizzarle. Pinochet li nominò uno per uno ministri dell'economia e delle finanze. Distrussero ogni cosa. Quello fu l'inizio della fine del paese che amavo. Oggi altri economisti neoliberisti si trovano in ogni governo cileno. Temo che questo sia un fenomeno mondiale. Le auto di questo cimitero sono come oggetti perduti durante il cammino. Sono diventate inutili. Così come queste automobili, è stato gettato via il Cile di un tempo. Per le strade di Santiago, la gente si perde cercando di orientarsi. Cammina, ma non si incontra. La città sembra un labirinto. Questa organizzazione sociale rende tristi i cileni, perché i cileni amano chiacchierare coi vicini, formare gruppi di vicinato o partiti politici, come una volta. Vivono la piazza come un luogo d'incontro. Basta attraversare la città per rendersi conto che oggi ci sono solo individui che camminano soli in mezzo a una moltitudine. Credo che la tristezza di questo paese non dipenda dal modello in sé, ma dal far parte di un sistema che non gli appartiene. C'è una strada, ma non si sa dove porti. Dei diritti umani è molto meno sentito di un tempo. Ora si parla delle donne, dell'aborto, dell'educazione, delle pensioni. Sono problemi reali di adesso. La repressione, la tortura e i desaparecidos non esistono più, ma l'ingiustizia è la stessa. Non è cambiato niente. Ora non ci sono morti o scomparsi, ma la situazione è la stessa. Mi sono fatto coinvolgere e sono rimasto bloccato qui per mia scelta. E mi interessa solo ricordare com'era la dittatura, come viviamo ora e come vivevamo, e mostrarlo ai giovani. Perché non venga dimenticato. Ma ti rendi conto che la gente non vuole? Il sistema di Pinochet è lo stesso di oggi. È un sistema economico che favorisce i ricchi e ruba i poveri. Non paghi una bolletta e la multa è altissima. Se un ricco vuole comprare una banca e chiede un prestito, glielo danno a interessi bassissimi. Se un povero compra un paio di scarpe a credito, le paga 3 volte tanto. Se un ricco compra una banca, la paga un'inezia. Il paese funziona così, ma è il nostro paese. È ciò che vogliamo. Non emigrerò in Argentina né in Brasile o altrove. Questa è la mia terra. Gli archivi di Pablo sono un tesoro fragile, ma straordinario. Sono testimonianza di una pagina della storia cilena. Mantengono intatte e visibili le migliaia di sfumature della resistenza popolare. Grazie al lavoro di Pablo, è impossibile cancellare la storia e affermare che il passato non sia mai esistito. Oggi, in tutto il Cile, ci sono molti giovani cineasti che filmano ovunque. Insieme scrivono la memoria del futuro. Questa volta, quando sono arrivato in Cile, ero molto attratto dall'idea di esplorare la cordigliera. Ma ho capito subito che la cordigliera mi nascondeva qualcosa. Oltre le rocce c'è qualcosa. Forse è l'eco del golpe. Questo mi rievoca un sentimento molto intimo. Non ho mai parlato della solitudine che mi accompagna da quell'11 settembre del 1973. È come un'ansia nascosta, come se mi fosse mancata la terra da sotto i piedi, come in un terremoto. Sono passati 46 anni da quando ho lasciato il mio paese. In tutto questo tempo ho realizzato 20 film sul Cile. Ho vissuto più tempo fuori dal mio paese che dentro. Mi sono abituato a realizzare i film da lontano, ma non ho mai smesso di sentirmi solo e di lavorare isolato, in mezzo alla vita quotidiana. Nella mia anima non si è mai dissipato il fumo della cenere della mia casa distrutta. Mi piacerebbe, se fosse possibile, ricostruirla e ricominciare da capo. Nella cordigliera ho trovato piccoli frammenti dell'universo. Sono conservati in diversi musei cileni. Sono i meteoriti, pietre che cadono dal cielo. sono minuscole parti di pianeti che vengono da molto lontano. Mia madre mi ha insegnato che ogni volta che ne cade uno nel cuore della notte, si può esprimere un desiderio che si realizza se non viene rivelato. E la sua gioia.